Investire informati. It's 2016, if you're a British or Irish citizen, you've got a big decision to make, a decision to remain or leave the EU. In this video I'm going to tell you why the UK should leave and maybe influence your vote. E insomma, vi stiamo proponendo, anche se lo potete sentire solo vocalmente, potete vederlo, uno dei tanti video che spiegano le alternative del referendum sulla Brexit che si svolge oggi. Intanto vi anticipo, come ho fatto prima, che stasera ci sarà lo speciale di Radio 24, Bye Bye Europa, Londra decide, dalle 23 all'1, conduce Gigi Donelli, ma saremo in tanti ad alternarci al microfono. Ammetto che era il compito di monitorare un po' le prospettive dal punto di vista dei mercati finanziari, insomma Brexit, mercati nervosi, come affrontare i rischi, come gestire l'emotività messa alla dura prova in tante occasioni negli ultimi tempi, consulenza, educazione finanziaria, anche oggi un piatto ricco di stimoli nella nostra rubrica del giovedì Investire informati. Insomma, ho preparato un bel piatto per Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco Bank, che saluto. Buongiorno. Grazie per essere venuto a trovarci in questa giornata, appunto, molto appassionante per certi punti di vista, anche per la consulenza finanziaria, per chi fa il vostro lavoro dal punto di vista giornalistico. Speriamo domani mattina di poterla raccontare con lo stesso sorriso sulle labbra e con la stessa serenità. Allora, Fineco Bank, per chi non la conoscesse, ma la conoscono oltre 1 milione di clienti, voi siete una banca diretta multicanale, una rete di consulenza composta da oltre 2600 personal financial advisor, mentre Alessandro Foti, mi piace anche dirlo Nicoletta, perché è proprio un vero uomo di cuore e denari, è un grande sportivo, ciclista, sci-alpinista, oltre che uomo di finanza. Ci tiene soprattutto a sottolineare sci-alpinista, vero? Assolutamente sì, è una grandissima passione. Ecco. È un po' il suo fiore all'occhiello. Infatti, no, l'ho voluto sottolineare perché tante volte noi abbiamo detto che benessere fisico e benessere finanziario possibilmente dovrebbero viaggiare di pari passo, visto che viviamo sempre più a lungo e quindi è importante tenere il tenore di vita dal punto di vista della salute, ma anche quello finanziario, il quanto più lungo possibile. Uno no? deve sorreggere l'altro. Esattamente. Dottor Foti, si è appassionato nelle ultime settimane al dibattito su Brexit? Ma se devo proprio essere sincero, non particolarmente, ma non perché il tema non sia, voglio dire, interessante ad attualità, ma perché semplicemente, diciamo, con ricorrenza quasi sistematica, noi praticamente abbiamo sempre qualche tema su cui concentrare l'attenzione, viene visto sempre come un po' il capolinea del tutto. Quindi abbiamo avuto la Grexit, ma comunque, soprattutto se andiamo indietro, guardiamo gli ultimi 15 anni per esempio, è tutto un susseguirsi di eventi che vengono vissuti come assolutamente drammatici, tremendi e tutto, poi alla fine tra una confusione e l'altra tutto viene digerito, il mondo va avanti. Il Morgan Stanley World Index delle economie mondiali negli ultimi 15 anni è riuscito, in mezzo a tutta questa confusione, a salire del 112%, per cui questo è uno dei tanti eventi, uno dei tanti momenti di, così, di potenziale volatilità, e come tale va affrontato. Quindi diciamo che non ha delle aspettative particolari da questa consultazione referendaria. Stiamo, come è successo anche in altri casi che lei ricordava, un po' enfatizzando le possibili conseguenze di un'eventuale scelta di uscire dall'Unione Europea da parte della Gran Bretagna, e insomma è probabile anche che in caso di vittoria del leave, dell'uscita, ci si adeguerà in tempi ragionevolmente brevi. Il tema è però, dottor Foti, che la politica condiziona ancora molto la finanza. Beh, sicuramente politica e finanza si condizionano a vicenda. Perché chiaramente non bisogna mai fare l'errore di pensare, perché c'è una tendenza a dire la finanza è qualcosa che non riguarda il mondo reale, la vita. Invece in realtà la finanza, ormai viviamo in un mondo che si muove a una velocità incredibile, la finanza fa parte di questo, c'è una finanziarizzazione importantissima. Poi alla fine la finanza, i mercati finanziari non sono altro che lo specchio dell'economia reale. Quando io vedo un indice azionario, in realtà lì sono rappresentate in tempo reale quello che è il presunto valore di tutta l'attività reale. Quindi la connessione tra finanza e mondo reale è strettissima. Sì, forse questo non è tanto vero magari per la Borsa di Milano, tanto esposta nel settore finanziario, quando invece l'economia reale del nostro paese è fatta di tante piccole e medie imprese che non si quotano in borsa, quindi magari, ecco, per questo paese forse questa regola vale un po' meno. Che dice? Ma secondo me invece alla fine, perché poi il fatto che le nostre aziende per esempio non si quotino, abbiano uno scarso utilizzo di capitale, ricorrano pesantemente al debito bancario, alla fine si riflette anche sulla borsa, perché abbiamo perché c'è una presenza così importante di banche, perché le banche hanno una presenza rilevante nell'economia reale del paese. Quindi alla fine è sempre tutto molto strettamente interconnesso. Attenzione a quello che diciamo, perché anche la vostra è quotata, per cui ogni parola potrebbe essere interpretata secondo magari non correttamente. Detto questo, voi state facendo in questo periodo molti incontri sul territorio con i vostri consulenti e i clienti di questi consulenti. Il vostro format si chiama Mercati Turbolenti, istruzioni per l'uso, non è una novità. Questi roadshow si chiamano così in gergo, esatto, finanziario, li, esatto, fanno molte banche, molte società di gestione del risparmio, e lo state facendo in un momento molto delicato per le famiglie che stanno provando a prendere confidenza appunto con tutti i fatti nuovi della finanza che noi raccontiamo spesso e volentieri dalla radio. Temi nuovi, la scottatura più grande degli ultimi mesi, adesso diciamo che la Brexit è proprio stato un tema assolutamente secondario per le famiglie italiane. La scottatura più grande, dicevo, è stata sicuramente il fallimento delle quattro banche a novembre, poi tutta la regolamentazione legata al bail-in. Cosa succede se una banca dovesse fallire? C'è un nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. Allora, che tipo di approccio state avendo, dottor Foti, sul territorio? Quali bisogni stanno provando ad intercettare i vostri consulenti finanziari? Pancia e cervello, insomma, credo che sia anche un po' il tema che viene, sì, affrontato. Che ritorna. Esatto. Beh, sicuramente, allora, noi partiamo da un presupposto molto semplice. Vuol dire, in questi incontri non è che cerchiamo di provare a interpretare dove andranno i mercati, perché bisogna essere molto onesti. Sul breve periodo nessuno sa dove andranno esattamente, ma cerchiamo di dare quelle che sono una serie di indicazioni di buon senso che, se seguite, non dico che uno debba diventare necessariamente ricco, ma sicuramente si mette nella condizione di gestire in maniera efficiente il proprio risparmio, mettendosi al riparo da quelli che sono i rischi più evidenti e probabilmente aumentando notevolmente la probabilità di raggiungere i propri obiettivi. Quindi il presupposto di base da cui si parte è appunto quello che dicevo prima, che se noi guardiamo l'economia reale del mondo nel suo complesso, lo vediamo che gravitazionalmente tende soltanto a salire, non può altro che crescere. Il mondo, fin tanto che esiste, non potrà altro che continuare a crescere, perché spinte demografiche, imprenditori che innovano, la ricerca di maggiore benessere, ogni volta che ci sono dei problemi poi il sistema sviluppa degli anticorpi che possono essere strumenti di politica monetaria, fino ad arrivare all'anticorpo più drammatico che magari è una guerra che resetta tutto e si riparte così. Quindi, partendo da questo presupposto, quindi il concetto basilare che dovrebbe affrontare i mercati in questa maniera basandosi su due concetti fondamentali. Il primo, un orizzonte temporale adeguato, quindi uno si deve interrogare qual è il mio obiettivo dell'investimento, perché da questo deriva l'orizzonte temporale. Se il mio orizzonte temporale è molto breve, è evidente che devo avere delle scelte molto conservative. Uh-huh. E l'altro, parlavo dell'economia del mondo, una grande diversificazione, perché quando faceva accenno al discorso delle banche fallite nel corso di questi mesi, il più grande errore fatto dai clienti di queste banche non è stato tanto di aver investito su una banca o di aver riposto fiducia ma l'errore banche. È stato di aver messo una parte rilevante delle proprie risorse in un'unica entità. Se anche l'avessero messa nella banca più sicura del mondo, comunque sarebbe stata una scelta, vuol dire, sbagliata. È chiaro che questi sono concetti che sembrano di buon senso e poi si scontrano, per tornare all'argomento così, con quello che è il più grande nemico di questo concetto, che è l'emotività. E qui torniamo al fatto della pancia, perché poi questi discorsi sono molto razionali, ma poi dopo, quando succedono gli eventi, puntualmente i risparmiatori tendono a comportarsi in maniera esattamente contraria a quello che suggerirebbe il buon senso. Dicono di aver fatto delle scelte razionali, magari condivise con il consulente finanziario, poi non appena si verificano magari anche dei sussulti di mercato, scoprono invece tutta la loro vulnerabilità, esatto, e fragilità. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari. Nicoletta, sei sempre lì a Roma, sei all'ascolto delle nostre indicazioni. Allora, questa mattina, per farne tesoro, brava, ma anche perché mi hai dato, come dire, un ritorno sul tema assist, ma insomma degli spunti interessanti che si calano molto bene anche per la parte di denari. Oggi è giovedì, c'è la nostra rubrica dedicata alla scuola di risparmio. Con Nicoletta nella prima parte abbiamo parlato di decisioni prese facendo prevalere la ragione, il cervello, oppure l'istinto e la pancia. Sono assolutamente indicazioni interessanti che ci vanno bene anche quando dobbiamo fare delle scelte di risparmio. Investire informati. E ospite della nostra rubrica del giovedì Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank. Vedo che molte sue considerazioni sul fatto di essere abbastanza, non dico disinteressato, ma insomma le guarda con un po' di distacco le vicende finanziarie contingenti. Sono considerazioni che ha fatto prima dottor Foti, che trovano il plauso di molti ascoltatori, quelli che riescono lo stesso ad essere, come dire, animati dallo stesso spirito quando fanno le proprie scelte di risparmio. C'è invece Loris da Treviso che ci scrive: ci sono in questi giorni delle aziende operanti nel Forex, quindi speculazione diciamo sul mercato valutario, che continuano a chiamarci in studio per proporci di investire mediante la loro piattaforma sfruttando la situazione Brexit. Ecco, allora queste situazioni qua le lasciamo ai trader professionali, no? Dottor Foti, voi tra l'altro nella vostra banca multicanale avete anche queste opzioni, certo, queste piattaforme. Per le scelte invece di risparmio che riguardano noi e la nostra famiglia, facciamoci affiancare da un consulente, prendiamo ben in considerazione quelli che sono i nostri obiettivi di vita, però insomma tutte queste regole molto spesso sono ancora difficili da trasmettere al risparmiatore. Ma perché? Ma perché allora innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che l'Italia si trova in una situazione abbastanza paradossale. Cioè c'è una quantità di risparmio incredibile, famosi 4 trillion di ricchezza finanziaria. Per dare un ordine di grandezza, il debito italiano sono 2,2 trillion, quindi vuol dire che gli italiani hanno una ricchezza finanziaria che è quasi due volte il debito pubblico. E c'è ancora un tasso di risparmio molto elevato, perché nonostante la crisi gli italiani continuano a risparmiare tanto. Hanno consumato un po' meno, ma hanno cercato, esatto, di continuare a risparmiare. Bravissima. Hanno tagliato, hanno razionalizzato i consumi, ma hanno continuato a risparmiare. Quindi ci si attenderebbe che in una situazione di questo genere ci fosse anche un elevato livello di cultura finanziaria. Ahimè, questo non è il caso. E quindi questo ancora purtroppo basso livello di cultura finanziaria porta a una grande confusione tra il concetto di investimento, che è finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi, e trading e speculazione di breve termine. Quindi non c'è ancora una perfetta cognizione relativamente a questa differenza. Allora, intanto vorrei anche invitare i nostri ascoltatori ad intervenire all'800 24 0024. Raccontateci se avete risparmiato. Con l'ottica che stiamo indicando questa mattina, ma che in realtà emerge da molte chiacchierate che facciamo con i consulenti finanziari che si alternano al nostro microfono, fate le vostre scelte teoricamente sulla base dei suggerimenti dati, quindi razionalmente, accompagnati in un percorso di lungo periodo da un buon consulente finanziario. E poi però c'è il momento in cui la pancia dice la sua e quindi vi spaventate, vi siete anche un po' spaventati. D'altronde negli ultimi 10 anni ci siamo spaventati ogni 6 mesi, dottor Foti, perché se dovessimo dar retta alla pancia qua, ecco, veramente dovremmo, no? Avere quasi fatto il callo. Nicoletta, non dice. Facciamo più niente, non usciamo più neanche di casa, altro che risparmiare ed investire. Per cui il tema nuovo è che dobbiamo imparare a gestire emotivamente parlando questa volatilità sul mercato finanziario. Ormai è una ricorrente strutturale. Ma sì, perché ci sono tutta una serie di eventi che hanno sconvolto anche nei mesi recenti la nostra vita quotidiana finanziaria, che non sono assolutamente risolti. Cioè la Grexit, ma in Grecia non è che i problemi siano stati tutti risolti, ci sono ancora. La guerra in Ucraina c'è ancora. Torniamo indietro ad eventi che hanno sconvolto i mercati finanziari. Ve la ricordate la SARS, famosa infezione che avrebbe dovuto bloccare il commercio mondiale? Beh, la SARS non è mica, esiste ancora. Però poi si è scoperto che il mondo andava avanti comunque. Ma infatti in Cina non hanno mica risolto i loro problemi, negli ultimi 2 mesi. Ma il mondo è fatto per avere problemi, ma poi trova anche tutte quelle che le soluzioni e la digestione di questi problemi. Certo. Senta, allora, i fattori importanti per investire e i suggerimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori / risparmiatori. Allora, intanto individuare un orizzonte temporale adeguato a seconda degli obiettivi finanziari di vita propri e della propria famiglia. Abbiamo già fatto un commento sul tema dell'emotività, vorrei invece fare un ragionamento un po' più lungo sul tema della diversificazione. Sì. Appunto, la situazione delle 4 banche risolte a novembre ci hanno mostrato in maniera molto chiara quale fosse l'errore più importante che i risparmiatori che avevano puntato sul rapporto di fiducia con quelle banche avessero fatto, cioè concentrare quasi tutto il loro risparmio in molti casi in un'unica obbligazione strutturata, non avendo per niente in molti casi appunto cognizione e conoscenza di quello che avessero fatto. Allora, ci spiega un po' bene come va intesa correttamente la diversificazione, ritornando appunto un po' ai casi drammatici delle persone che avevano investito tutto nelle obbligazioni subordinate delle 4 banche. Come si può provare a suggerire alle persone di cambiare approccio su questo tema? Proverò a spiegarlo con dei concetti abbastanza semplici. Allora, la mancata diversificazione dei propri investimenti probabilmente è il rischio principale non ancora pienamente compreso su cui il risparmiatore italiano è seduto. Cioè, quando parliamo della, voglio dire, dell'economia del mondo che tende naturalmente comunque a crescere sul lungo periodo, attenzione, questo non vuol dire che tutti i paesi crescano, che tutte le aziende vadano bene, cioè è un complesso generale dove noi avremo l'economia che va bene, ma avremo dei paesi vincenti, dei paesi perdenti, all'interno delle varie industrie avremo delle industrie che vanno bene, all'interno di questo ci saranno aziende che avranno successo e aziende che non avranno successo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio delle scommesse troppo mirate, cioè investo per esempio su una singola azienda che presenti in un solo paese, tutto così, questo mi espone a dei rischi imponenti. Banalmente, all'inizio del Novecento l'Argentina era tra i primi 10 paesi più ricchi al mondo, adesso non è più in questa situazione. Quindi se uno fosse stato concentrato tutto in Argentina avrebbe avuto dei grandissimi dispiaceri, mentre nel frattempo l'economia mondiale è cresciuta in maniera enorme. Gli italiani continuano ad avere una maggior parte dei propri investimenti concentrati, per esempio, o su singoli emittenti o comunque su asset esclusivamente italiani. E voglio dire, noi come cittadini italiani, per definizione, nel momento in cui operiamo, siamo già esposti a un gigantesco rischio paese. Basta pensare a tutti i flussi di reddito, di pensioni che genereremo, facciamo il valore attuale, lo guardiamo, le case, la casa che abbiamo. Quindi per definizione noi dobbiamo andare in una direzione di quella che è la diversificazione. È evidente che diversificazione vuol dire investire con uno spettro che è di carattere mondiale, che spazia su quelli che sono un'enormità di paesi, di industrie, di aziende. Quindi parliamo di un argomento molto molto complesso e che come tale va affrontato. Ecco, diciamo che gli italiani, grazie sfortunatamente ai fatti poco piacevoli che sono capitati recentemente, stanno finalmente capendo l'entità di questo rischio su cui sono seduti, e quindi a quello a cui stiamo assistendo è un'esplosione di richiesta di consulenza. Esattamente come se io devo costruire una casa, i calcoli strutturali me li faccio fare dall'architetto, non mi metto a farli per conto mio. Almeno io non andrei a abitare in una casa dove ho fatto io i calcoli strutturali. Ecco, la gestione di un portafoglio diversificato e ben strutturato è esattamente la stessa cosa, è come costruire una casa. Allora, un altro tema che mi piacerebbe adesso affrontare con lei, dottor Foti, è quello del rendimento zero e sotto zero del titolo di Stato, perché è un'altra situazione nuova con la quale stiamo prendendo confidenza da un po' di tempo a questa parte, ma che molti risparmiatori italiani faticano davvero duramente a digerire. Questo è un altro motivo per cui bisogna guardarsi intorno, contestualizzare un po' i fatti finanziari. Sentirei però adesso un'ascoltatrice gentile di Bologna, no? Maria Luigia. Esatto. E poi pronti anche agli ascoltatori, perché vorrei testare loro, sconfessando tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, se in realtà hanno letto la cronaca finanziaria in questi giorni. C'è il domandone sui temi del momento, per cui se volete guadagnarvi naturalmente un libro di Cuore e Denari, noi siamo pronti a testare appunto le vostre conoscenze finanziarie del momento. Allora, la chiamiamo? Maria Luigia, buongiorno e benvenuta a Cuore e Denari. Salve, buongiorno. Io volevo chiedere questa cosa all'esperto, ma siamo proprio sicuri che investendo secondo i canoni vigenti sull'orizzonte temporale siamo abbastanza certi di fare la cosa buona? Perché a me sembra che non sia proprio così. Canoni vigenti secondo le sue esigenze, non è che ci siano dei canoni universali validi per tutti, Maria Luigia. Sì, di quello che si dice, cioè a breve termine, se siamo quasi sicuri di dover spendere la cifra, a medio, a lungo, se non siamo, eccetera, eccetera, queste cose qua. Perché è scettica su questo approccio? Deve personalizzare estremamente. Perché Maria Luigia è scettica su questo approccio? È rimasta delusa? Ho visto nel tempo che questa cosa non sia vera. Allora, Maria Luigia, io sono diventata abbastanza, ecco, una mordi e fuggi dell'investimento. No, non mi faccio a questo errore contrario. No, assolutamente. Allora, come anche sono estremamente contrario al fai da te. Certo. Allora, Maria Luigia, grazie per la sua osservazione. Giro un po' la domanda di Maria Luigia, dottor Foti, perché effettivamente un po' la perplessità sul tema del lungo termine può essere anche considerata condivisibile. Ci sono stati dei momenti di mercato. Io questo parallelismo, questa considerazione me la gioco spesso in tanti eventi in cui vengo invitata appunto anche a moderare insieme a società colleghe della vostra. C'è stato un momento in questa crisi recente in cui il mercato finanziario era tornato indietro di 12 anni, aveva cancellato il mercato azionario per l'appunto 12 anni con l'italiano. Anche le borse un po' più internazionali. No, c'è stato un momento in cui molte piazze finanziarie erano tornate indietro di una decina d'anni. Poi hanno recuperato tutto, andando anche oltre il mercato americano sui massimi. E quindi, insomma, per qualcuno forse ha anche ragione di ritenere che la pazienza qualche volta non paga. Ma dunque, allora, i dati, i numeri dicono esattamente il contrario. Nel senso che io ritorno, allora, guardo, voglio dire, gli ultimi 15 anni. Nel 2009 eravamo ritornati sui livelli del 97. Ma comunque, guardiamo gli ultimi 15 anni, che sono quelli su cui c'è una memoria storica. Tutto sì. Così. Allora, negli ultimi 15 anni abbiamo avuto, non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo avuto la più grande bolla finanziaria che si ricorda a memoria d'uomo, la famosa New Economy, Nasdaq, esatto, che sì, praticamente più che dimezza i suoi valori. Poi abbiamo avuto il più grande attentato terroristico che si ricorda a memoria d'uomo. Abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto il fallimento delle più grandi banche di investimento, la crisi del debito sovrano europeo, esplosioni nucleari, guerra in Iraq, guerre, insomma, tutto crisi così. Delle materie prime, esatto, paesi emergenti. Se metterle tutte in fila, esatto, viene paura. Esatto. No, beh, però ecco, questa, perché non però le digeriamo di volta in volta, questa, e poi invece l'elenco è lungo. Questa è la normalità. All'interno di questo, chiaramente, abbiamo avuto su orizzonti temporali brevi dei momenti di grandissima volatilità con correzioni pesantissime. Poi dopo, alla fine, guardiamo, voglio dire, che vuol dire chi ha avuto, voglio dire, chi aveva chiaramente la possibilità di avere un orizzonte temporale adeguato e avesse investito in maniera diversificata, ritorno sul punto, perché se io, chiaro, vado a fare delle scommesse su un singolo paese, infatti non a caso parlavo del mercato italiano, abbiamo avuto in tutta questa fase qui l'indice della borsa mondiale, il famoso Morgan Stanley, sì, World, che e tutto all'inizio, così, che ha avuto una performance del 112%. Nel frattempo, per esempio, la borsa italiana, ahimè, visto che siamo italiani, ha perso il 40%. Mm-hmm. Quindi questo è un esempio di diversificazione. È chiaro che riuscire a resistere emotivamente, il presupposto è, primo, l'investimento deve essere fatto in maniera ben diversificata e ben costruita. Secondo, l'orizzonte temporale deve essere quello giusto, quindi deve essere coerente con sé. E terzo, voglio dire, io devo essere consistente nel non farmi trascinare dall'emotività del momento. E anche ci aggiungerei non essere particolarmente avidi e poi essere in grado anche di capire che magari il tuo investimento si può scostare anche dal rendimento atteso se la borsa fa meno 30 complessivamente in tutto il mondo, come è successo all'inizio dell'anno, e il tuo patrimonio investito invece magari ha in quel momento un po' di volatilità, un po' di scossone, scende un po', ma magari il tuo gestore te lo protegge, anche quello è un gran risultato che, per esempio, molto spesso non viene percepito. C'è un famoso, un leggendario investitore, gestore, così, il famoso Peter Lynch del, sì, Magellan Fund. Questo fondo ha avuto delle performance straordinarie per un sacco di anni a venire, e lui ha detto: sì, però i miei clienti in realtà hanno guadagnato molto poco, perché purtroppo hanno distrutto l'eccellente performance. Uscivano e entravano, esatto, così un po'. Esatto. Quindi noi, se guardiamo i flussi finanziari, la tendenza, che cos'è alla fine, bisogna dirlo, comprare sui massimi, comprare mentre il mercato sale e vendere mentre il mercato scende. La finanza comportamentale ce lo racconta. Bisognerebbe fare esattamente il contrario. Lo so, allora intanto sono quasi le 11:40. Bisogna decidere di dare la linea. Grazie, al traffico tra poco. Poi il quizzettone, pronti? Cuore e denari. Diamo rischia tutto noi per il nostro programma. Allora, oggi vi chiedo questo, ovviamente, sempre ribadendo la nostra raccomandazione regina: fate le vostre scelte di risparmio e di investimento accompagnati da un consulente finanziario, individuando bene i vostri obiettivi di vita, quelli vostri e quelli della vostra famiglia. Poi però, possibilmente, anche se leggete un giornale, non passate proprio così, non saltate completamente le pagine di Economia e Finanza, magari un pochino leggetele, e anche magari avrete anche letto, come si chiama, il titolo di Stato del Regno Unito. Allora, se lo sapete, chiamateci all'800 24 00 24, prendiamo solamente le risposte che arrivano al numero verde, per cui non potete guadagnarvi il nostro libro se ci scrivete. Poi, se ci volete dimostrare tutta la vostra preparazione anche al numero degli SMS, noi li leggiamo volentieri, però non avrete diritto al libro. Come si chiamano i titoli di Stato del Regno Unito, della Gran Bretagna, e se ci mettete anche il perché, saremo anche più contenti, dai, perché c'è una storia carina. Basta. Sì, Però sì. Chi mette il perché un altro libro? Certo, bisogna... di cuore e denari naturalmente, certo. Uno che parla di pancia e di cervello, dai. Nicoletta. Dottor Foti, allora Gianni da Milano ci scrive, ma come lo scelgo l'ingegnere che mi fa i calcoli strutturali? Non so se si riferisse appunto al fatto come scelgo il consulente finanziario che fa per me e mi accompagna in questo percorso di vita. Allora, è un grande tema anche questo, abbiamo delle professionalità eccellenti in Italia, ma ancora per molte persone la ricerca del consulente a cui delegare le scelte operative di investimento rappresenta un momento complicato. Ci dà qualche buon suggerimento per individuare il professionista che va bene per noi? Qua è la pancia che confligge con il cervello anche di fronte a certe persone che magari non riusciamo, di cui non riusciamo ad individuare bene le caratteristiche, le qualifiche professionali. Certo, allora sicuramente stiamo parlando di una relazione molto particolare, perché il consulente finanziario deve essere in grado di capire quelle che sono le esigenze, gli obiettivi, voglio dire, che un cliente ha, quindi necessariamente ci deve essere una componente empatica, voglio dire, se non c'è, voglio dire, del feeling, voglio dire, non può funzionare. Però torniamo alla parte razionale, ci sono degli aspetti che ci fanno immediatamente capire molto velocemente se il consulente finanziario è quello giusto. Che cosa? Allora, dipende da che cosa il consulente finanziario mi dice appena mi incontra. Allora, se il consulente finanziario, la prima domanda che mi fa è del tipo, mi faccia capire quali sono gli obiettivi che lei si prefigge di raggiungere con col proprio denaro, e da qui anche capire l'orizzonte temporale, cerca di capire quello che è la intuire quella che è la propensione, certo, al rischio e tutto così. Lei ha 100 e le servono, ecco, per comprare casa fra un mese, o ha 100 che possono essere accantonati e quasi dimenticati per, esatto, un lungo periodo? Dopodiché, una volta che ha capito questo, si propone con delle soluzioni che vanno nella direzione di risolvere quello che questo fa bisogno che il cliente ha. Ecco, direi che se questo è l'approccio, molto probabilmente abbiamo trovato il consulente giusto. Se invece il consulente comincia a dirmi, guardi che io ho la soluzione che le permette, che è in grado di farle guadagnare tanti soldi rischiando poco, la famosa pietra filosofale che non esiste, quella di Harry Potter della finanza, oppure guardi, questo è il momento di uscire dai bond, comprare le azioni, oppure adesso c'è il momento di comprare la Cina piuttosto che l'India e tutto così. Ecco, direi che siamo abbastanza certi che questo non è l'ingegnere che mi aiuterà a costruire i calcoli strutturali. Esatto, la consulenza affidata all'esame dello strumento finanziario, dobbiamo diffidare da questa. La consulenza deve poggiare invece sull'esame della nostra, esatto, persona. È come se un medico ti proponesse, no, dei farmaci, esatto, degli esami, senza averti prima visitato e raccolto, esatto, tutte le tue informazioni. Esatto, è corretto, magari, dottor Foti? Perfetto, che non sarei riuscito a trovare una similitudine. Adesso se la spendono nel loro show, sì, eh? Sì. Lei mi lusinga, però sì, sì. Con Deborah abbiamo tante volte sottolineato che ci sono proprio delle sovrapposizioni, delle similitudini, infatti, tra i due mondi, no? Il mondo, certo, della salute e il mondo del risparmio. Benessere finanziario e benessere personale appunto devono viaggiare di pari passo. Senta, come stanno affrontando i risparmiatori italiani questa situazione di rendimenti dei titoli di Stato a zero e sotto zero? Perché qua ancora per molti è totalmente incomprensibile questo nuovo scenario, dottor Foti. Non è stato ancora completamente digerito, nel senso che abbiamo visto anche delle recenti analisi che, voglio dire, che sono andate a chiedere ai clienti, quello, voglio dire, ai risparmiatori, quelli che ritengono essere un equo rendimento, e ancora molti italiani dicono che secondo loro un equo rendimento dovrebbe essere intorno al 9% rischiando poco, che vuol dire essere completamente disconnessi da quella che è la realtà dei fatti, soprattutto perché c'è poi una scarsa capacità di mettere in linea quello che è il rendimento di un portafoglio e tutto con quello che per esempio è il tasso di inflazione, cioè il famoso rendimento reale. Se io sono in un contesto di inflazione negativa, anche un rendimento che può sembrare nominalmente basso in realtà è un rendimento molto interessante. Che batte l'inflazione. Quindi ricordiamoci che quando i titoli di Stato rendevano molto, l'inflazione era anche molto alta. Per rendevano cui il, rendevano, esatto, il 18, l'inflazione era il 20 e aveva un rendimento, ecco, reale negativo. Negativo. Adesso un BTP a 10 anni che rende l'1,5%, sappiamo che ahimè il paese è in una situazione ancora di deflazione, mi porta un rendimento reale che è quasi vicino al 2%, non è niente eccezionale, ma non è neanche proprio da buttare via. Insomma, contestualizzazione, non ci dimentichiamo mai un'altra delle nostre parole magiche. Allora, non so se Flavio da Roma, non riesco a sentirlo, ma negli ultimi 4 anni voleva raccontarci che ci racconta di aver fatto investimenti diversificati. Poi Flavio, naturalmente noi ci affidiamo a quello che ci racconta, bisognerebbe vedere anche se la diversificazione era adeguata, però lui dice sostanzialmente i guadagni è stato pari quasi a zero. Allora mettiamola così, che con questi scenari di mercato il suo capitale è stato protetto, non ha reso magari in maniera soddisfacente, chissà quanto si aspettava anche Flavio. Sentirei Maurizio da Imperia che risponde al domandone velocissimo. Maurizio, grazie. Ah sì, buongiorno a voi. Che cos'è, come si chiama il titolo di Stato britannico? Il GILT, mettiamo, ecco, diciamola come ci pare. Lo sa anche perché si chiama così? No, non ho avuto modo di... Mannaggia. Allora, gilt perché significa dorato, perché praticamente il primo certificato di questo tipo emesso aveva proprio questa caratteristica di essere dai bordi dorati. Ma insomma, la storia sarebbe lunga. Intanto, dottor Foti, il tempo a nostra disposizione è volato, ma io lo aspetto presto qua, a Cuore Denari. Grazie, è stato veramente molto, molto piacevole. Vorrei sapere anche qualcosa di più sull'attività della banca multicanale, sulle sfide della digitalizzazione, che sono anche molto importanti per i risparmiatori, quindi prendo qua e lo dico a tutti un appuntamento con lei. Vengo di sicuro di nuovo. Grazie molte. Nicoletta, abbiamo terminato. Sì, torni, ma domani brava. Sì. Adesso parto e arrivo da te. Bene, buona giornata a tutti.